la mattina mi diverto io con le fratture, non preoccupare. Vedrai come si chiama quella bagassone tua madre. Don Froscio, tua madre è bagassa! Bagassa! Troia è tua madre, capito? Troia è tua madre, capito? Che ti lascia uscire anche la notte, quella puttana.